Buongiorno cari amici ascoltatori, che siete sintonizzati per la prima volta sulla nostra radio, Radio Gadda. Nata grazie all'audacia di alcuni temerari, Radio Gadda è un nuovo modo di stare insieme per condividere le nostre emozioni attraverso tutto ciò che ci fa stare bene. Attenzione, il nostro intento non è naturalmente quello di annoiarvi, anche perché noi non ci riteniamo degli intellettuali, ma di farvi passare dei momenti di serenità e, perché no, anche di divertimento. Come? Beh, ad esempio trasmettendo della buona musica, offrendovi letture di brani degli scrittori più famosi, oppure intrattenendovi con le nostre più svariate rubriche, dalla moda allo sport o quant'altro. Che cosa aspettiamo allora? Allacciate le cinture che si parte! Questo è il sommario della nostra prima puntata. Per la rubrica Forever Young, un brano tratto dal blog You Are Such a Disaster. Seguiranno quattro letture nell'ambito della settimana dell'intercultura, organizzata dal comune di Paderno Dugnano. Per la rubrica Made in Gadda, l'intervista a un ragazzo che ha partecipato al progetto ABC Digital. In chiusura vi presenteremo la nostra iniziativa tesa a valorizzare realtà musicali locali in Gadda We Trust. Quando ero piccola, mettevo le braccia nella maglietta e dicevo alle persone che le avevo perse. Riavviavo il videogioco ogni volta che stavo per perdere. Dormivo con tutti gli animali di peluche, come un bambino, così nessuno di loro si offendeva. Avevo quella penna a quattro colori e cercavo di spingere i bottoni tutti in una volta. La decisione più difficile era scegliere con quale gioco del Nintendo giocare. Aspettavo dietro una porta per spaventare qualcuno, poi me ne andavo perché ci avevano messo troppo ad arrivare o perché dovevo fare pipì. Fingevo di dormire, così potevo essere trasportata a letto. Pensavo che la luna seguisse la mia macchina. Guardavo due gocce d'acqua scivolare sulla finestra e facevo finta che fosse una gara. Usavo il computer solo per andare su Paint. L'unica cosa di cui mi dovevo preoccupare era il Tamagotchi. Gli unici falsi amici che avevo erano quelli invisibili. Mi sbucciavo le ginocchia, che guarivano meglio di un cuore distrutto. Ricordo quando eravamo bambini e non potevamo aspettare di crescere. A che cavolo stavamo pensando? Tratto dal sito youaresuchadisaster.tumblr.com. Di Nazim Hikmet nasceranno uomini migliori. Nasceranno da noi uomini migliori. La generazione che dovrà venire sarà migliore di chi è nato dalla terra, dal ferro e dal fuoco. Senza paura e senza troppo riflettere, i nostri nipoti si daranno la mano e, rimirando le stelle del cielo, diranno: com'è bella la vita. Intoneranno una canzone nuovissima, profonda come gli occhi dell'uomo, fresca come un grappolo d'uva, una canzone libera e gioiosa. Nessun albero ha mai dato frutti più belli e nemmeno la più bella delle notti di primavera ha mai conosciuto questi suoni, questi colori. Nasceranno da noi uomini migliori. La generazione che dovrà venire sarà migliore di chi è nato dalla terra, dal ferro e dal fuoco. Dello storico francese Fernand Braudel leggo un brano tratto da Il Mediterraneo, lo spazio, la storia, gli uomini e le tradizioni. Che cos'è il Mediterraneo? Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà accatastate le une sulle altre. Viaggiare nel Mediterraneo significa incontrare il mondo romano in Libano, la preistoria in Sardegna, le città greche in Sicilia, la presenza araba in Spagna, l'Islam turco in Jugoslavia. Significa sprofondare nell'abisso dei secoli, fino alle costruzioni megalitiche di Malta o alle piramidi d'Egitto. Significa incontrare realtà antichissime ancora vive a fianco dell'ultramoderno. Tutto questo perché il Mediterraneo è un crocevia antichissimo. Da millenni tutto vi confluisce, complicandone e arricchendone la storia. Bestie da soma, vetture, merci, navi, idee, religioni, modi di vivere. E anche le piante, le credete mediterranee? Ebbene, a eccezione dell'ulivo, della vite e del grano, sono quasi tutte nate lontano dal mare. E a voler catalogare gli uomini del Mediterraneo, quelli nati sulle sue sponde o discendenti di quanti in tempi lontani ne solcarono, ne coltivarono le terre, i campi a terrazze, e poi i nuovi venuti che di volta in volta lo invasero, non se ne trarrebbe la stessa impressione che si ricava redigendo l'elenco delle sue piante e dei suoi frutti? Nel paesaggio fisico, come in quello umano, il Mediterraneo crocevia si presenta al nostro ricordo come un'immagine coerente, un sistema in cui tutto si fonde e si ricompone in un'unità originale. Come spiegarla? Come spiegare l'essenza profonda del Mediterraneo? Sarà necessario moltiplicare gli sforzi. La spiegazione non risiede soltanto nella natura, che pure molto ha operato in tal senso, né soltanto nell'uomo, che ha ostinatamente legato insieme il tutto, ma nel confluire dei favori e delle maledizioni, numerosi entrambi, della natura e degli sforzi molteplici degli uomini, ieri come oggi, in un susseguirsi interminabile, insomma, di casi, incidenti, reiterati successi. Di Giuseppe Ungaretti, In memoria, tratto da Vita d'un uomo. Si chiamava Mohamed Shehab, discendente di emiri nomadi suicida perché non aveva più patria. Amò la Francia e mutò nome. Fu Marcel, ma non era francese e non sapeva più vivere. Nella tenda dei suoi, dove si ascolta la cantilena del Corano gustando un caffè, e non sapeva sciogliere il canto del suo abbandono. L'ho accompagnato insieme alla padrona dell'albergo dove abitavamo a Parigi, dal numero 5 della Rue de Carmes, appassito vicolo in discesa. Riposa nel Camposanto di Vry, sobborgo che pare sempre in una giornata di una decomposta fiera, e forse io solo so ancora che visse. Pappagalli Verdi. Un vecchio afghano, con i sandali rotti e infangati, stava accanto al figlio di 6 anni nel pronto soccorso dell'ospedale di Quetta. Il bambino si chiamava Khalil e aveva il volto e le mani, o quel che ne restava, coperti da abbondanti fasciature. Stava sdraiato, immobile, la camicia annerita dall'esplosione. Qualcuno aveva strappato una manica e ne aveva fatto un laccio, per fermare l'emorragia. «È stato ferito da una mina giocattolo, quelle che i russi tirano sui nostri villaggi», disse Mubarak, l'infermiere che faceva anche da interprete. «Non ci credo, solo propaganda», ho pensato, osservando Mubarak che tagliava i vestiti e iniziava a lavare il torace del bambino. Non si è neanche mosso, né un lamento. In sala operatoria ho tolto le bende. La mano destra non c'era più, le 3 dita della sinistra completamente spappolate. Avrei preso in mano una granata, mi sono detto. Sarebbero passati solo 3 giorni, prima di ricevere in ospedale un caso analogo, ancora un bambino. All'uscita della sala operatoria Mubarak mi mostra un frammento di plastica verde scuro, bruciacchiato dall'esplosione. «Guarda, questo è un pezzo di mina giocattolo. I nostri vecchi le chiamano pappagalli verdi». E si mette a disegnare la forma della mina. 10 centimetri in tutto. 2 ali, con al centro un piccolo cilindro. Sembra una farfalla più che un pappagallo. Vengono già migliaia, lanciate dagli elicotteri a bassa quota. Chiede ad Abdullah, l'autista dell'ospedale. Uno dei bambini di suo fratello ne ha raccolto una l'anno scorso. Ha perso 2 dita ed è rimasto cieco. Mine giocattolo. Studiate per mutilare bambini. Ho dovuto crederci, anche se ancora oggi ho difficoltà a capire. La forma della mina, con 2 ali laterali, serve a farla volteggiare meglio. In altre parole, si comportano proprio come dei volantini, si sparpagliano qua e là su un territorio molto più vasto. A me non è mai successo, tra gli sventurati feriti di queste mine, che mi è capitato di operare, di trovare un adulto. Neanche uno, in più di 10 anni. La mina non scoppia subito. Spesso non si attiva se la si calpesta, ci vuole un po' di tempo. Funziona, come dicono i manuali, per accumulo successivo di pressione. Bisogna prenderla, maneggiarla ripetutamente e schiacciarne le ali. Chi la raccoglie può portarsela a casa, mostrarla nel cortile agli amici incuriositi, che se la passano di mano in mano, ci giocano, poi esploderà. Ho visto troppo spesso bambini che si risvegliano dall'intervento chirurgico e si ritrovano senza una gamba, senza un braccio. Hanno momenti di disperazione, poi incredibilmente si riprendono. Ma niente è insopportabile. Come svegliarsi nel buio. I pappagalli verdi li trascinano nel buio per sempre. Che cosa spinge la mente umana a immaginare, a programmare la violenza? Abbiamo immaginato un ingegnere, efficiente e creativo, seduto alla scrivania a fare bozzetti. E poi un chimico, a decidere i dettagli tecnici del meccanismo esplosivo. E infine un generale, compiaciuto del progetto, e un politico che lo approva. e operai in un'officina che ne producono migliaia ogni giorno. Sono esseri umani, hanno una faccia come la nostra, una famiglia come l'abbiamo noi, dei figli. E probabilmente li accompagnano a scuola la mattina. Li prendono per mano mentre attraversano la strada. Che non vadano nei pericoli. Li ammoniscano a non farsi avvicinare dagli estranei, a non accettare caramelle o giocattoli da sconosciuti. Poi se ne vanno in ufficio, a riprendere diligentemente il proprio lavoro, per essere sicuri che le mine funzionino a dovere. Più bambini mutilati e ciechi, più il nemico è sconfitto, punito, umiliato. E tutto ciò avviene dalle nostre parti, nel mondo civile, tra banche e grattacieli. Ho incontrato molti Khalil in giro per il mondo, l'ultimo si chiama Tassim. È un ragazzo curdo, di 15 anni, è cieco e senza mani. L'ho operato 2 settimane fa, uno strano intervento chirurgico che trasforma gli avambracci e li rende simili alle chele di un granchio o ai bastoncini cinesi, perché possono afferrare oggetti. Gli stiamo insegnando ad adattarsi alla nuova forma del suo corpo. Lo guardo mentre cerca, per ora senza successo, di portarsi un cucchiaio alla bocca senza rovesciare la zuppa. È stanco e un poco frustrato. Per oggi non ne vuole più sapere di fare esercizi. Alcune classi dell'Istituto Carlo Emilio Gadda hanno partecipato al progetto ABC Digital. Chiediamo a Matteo di spiegarci di cosa si tratta. Il progetto ABC Digital è una proposta lanciata da Asso Lombarda, un'associazione di industriali della provincia di Milano, Lodi, Monza e Brianza, che prevede la formazione di studenti della scuola superiore per poter insegnare nozioni di base in ambito tecnologico a persone over 60. Alle lezioni tenute da studenti precedentemente formati possono partecipare tutti quelli che sono interessati ad integrarsi un po' di più con il mondo della tecnologia moderna. In questo caso siamo stati formati per insegnare gli usi e le caratteristiche principali dei tablet e il progetto si è sviluppato su 6 lezioni di 2 ore e mezza in cui spiegavamo le principali caratteristiche come nella prima lezione che cos'è il tablet e come si utilizza, fino all'ultima lezione come iscriversi a un social network. Prima di ogni lezione 2 insegnanti accoglievano gli over nell'istituto, facevamo l'appello per verificare i presenti e fornivamo un tablet a persona da utilizzare durante la lezione. Seguivano poi momenti di lezione frontale in cui un tutor spiegava le nozioni teoriche alla classe e momenti in cui tutti gli insegnanti affiancavano gli studenti over nell'utilizzo pratico del tablet. Alla fine del corso gli over hanno ricevuto un attestato che dichiarava loro la partecipazione e il livello raggiunto, e un glossario con tutti i termini e nozioni spiegate durante il percorso. Matteo, com'è stata la formazione? La formazione a cui abbiamo partecipato prima di cominciare il percorso è durata complessivamente 8 ore, suddivise in 2 lezioni di 4 ore ognuna, tenute da un'esperta. Nella prima lezione sono stati spiegati ai ragazzi i vari obiettivi e argomenti da insegnare agli over, sono state date anche delle dritte e spiegate tutte le modalità per approcciarsi nel modo più corretto con il particolare gruppo di studenti. Nella seconda lezione invece sono state svolte delle prove per simulare delle vere e proprie lezioni come quelle che avremmo poi dovuto svolgere nel percorso del progetto. Quali sono state le difficoltà più grandi che il gruppo di docenti ha dovuto affrontare? In alcune parti del percorso, soprattutto alle lezioni frontali, è risultato più difficile di quanto si potesse pensare mantenere un lessico abbastanza semplice da rendere facile la comprensione al gruppo di over, per via dei termini tecnici che vengono utilizzati inconsciamente da noi giovani e che persone più anziane e inesperte nel settore non conoscono. Un'altra difficoltà incontrata durante il percorso si manifestava quando durante le lezioni si iniziava a creare brusio in eccesso e nessuno di noi giovani osava alzare la voce per chiamare l'attenzione di tutti, perché sembrava troppo scortese in quanto avevamo a che fare con persone più mature. L'ultimo grande ostacolo che bisognava affrontare durante il percorso riguardava principalmente la stanchezza, sia fisica che mentale. Dopo una giornata di scuola magari non leggerissima, non era sempre semplice mantenere la lucidità, la grinta e l'entusiasmo con la serietà necessaria. Che rapporto si è instaurato con gli over? Dopo un po' di imbarazzo iniziale, dovuto al fatto che non conoscevamo le persone con cui avremmo lavorato, l'atmosfera si è presto rilassata. Gli over sono stati fin da subito molto comprensivi con noi, aiutandoci così a restare in un ambiente serio ma allo stesso tempo piuttosto rilassato, senza inutile tensione. Alle volte dandoci anche consigli su come rendere la lezione più semplice sia per noi che dovevamo spiegare, sia per loro che dovevano apprendere. C'erano over che apprendevano in maniera molto rapida o addirittura già in grado di svolgere alcune attività ancora prima della spiegazione, mentre altre necessitavano di maggiore attenzione e che erano seriamente impacciati davanti alle nuove tecnologie. La pazienza e la voglia di lavorare sono stati fin da subito importanti per una buona collaborazione. Questa intervista è stata realizzata da Matteo Bellettati, Sara Bison e Andrea Scuratti della classe terza L dell'indirizzo grafico. Qui con noi c'è Ivan. Ciao a tutti. Bene, in Gadda We Trust noi proponiamo nuove espressioni artistiche, soprattutto musicali, dei nostri compagni. E infatti Ivan è qui per proporci un inedito, giusto? Sì. Che inedito è? Di cosa si tratta? È una strumentale che abbiamo composto con la mia band. Come si intitola? Si intitola Grave. Wow, e quindi tu hai una band, questo gruppo ha già un nome? No, dobbiamo ancora definirci e stiamo provando. Ah, e siete in tanti, in quanti siete? Siamo in sei, siamo in due chitarristi, un bassista, un batterista e una tastiera. Mm-hmm. Capisco, siamo molto curiosi. Quindi prima o poi ci proporrete un vostro brano che manderemo in onda. Altre due cose, ragazzi, vi faremo sapere presto come contattarci, sia per mandarci delle vostre proposte per il nome della band Ivan, dato che non ne è ancora uno. Ovviamente aspettiamo numerosi vostri inediti, che siano brani musicali o poesie. Intanto presentiamo Grave di Ivan. Diversi validi studenti del glorioso istituto GAB, tutti meritevoli di menzione e quindi per amor di paradosso tutti non menzionati. Questa prima puntata avrà un seguito nella stagione 2016-2017. Unisciti a noi, per far risuonare ancora più forte la voce di Radio Gada. E se vuoi tieniti aggiornato sul nostro wiki, http://gabawikispaces.com. Radio Gada.